Il poeta e la principessa. C'era una volta un poeta di nome Zoran, che scriveva poesie sull'amore e che le persone di ogni parte del mondo adoravano. Zoran viveva da solo con il suo pappagallo domestico chiamato Peri Peri. Ma dopo anni passati a scrivere poesie e vendere tutte le sue collezioni, iniziò a scoraggiarsi. Per chi sto scrivendo tutto questo? Tutte le poesie sull'amore immortale, sul battito del cuore, l'amore a prima vista, tutto questo sembra così insignificante. Come posso scrivere sull'amore quando io stesso non l'ho nemmeno provato una volta? Zoran, amico mio, pensi troppo! Devi calmarti! Calmarmi? Calmarmi! Sì, questo è tutto! Ho bisogno di rilassarmi. Ho bisogno di calmarmi. Oh, grazie. Grazie. Grazie mille, Peri Peri. Sei il migliore. Ho bisogno di rilassarmi. Ho bisogno di rilassarmi. Ah, che diavolo! Penso che abbia perso la testa. Dove vai? Non io, amico mio. Noi ce ne andiamo. Posso chiederti do? Zoran mise Peri Peri nella tasca del cappotto e prese la sua valigetta e se ne andò da casa sua. Benvenuti al Titanic, una delle migliori navi da crociera in tutto il mondo. Vi porteremo nella vasta e spettacolare regione artica. L'Artico va dall'estremo oriente russo, di Spitsberg, alla Norvegia artica. Coperto di ghiaccio per la maggior parte dell'anno, è durante questi brevi mesi estivi che ci viene offerta l'opportunità di assistere ai diversi scenari, alla fauna insolita e alle persone interessanti che l'Artico ha da mostrare. La testa tremante di Peri Peri sbirciò dalla tasca. Noi stiamo andando all'Artico? Sì! Ma perché? Hai detto che ho bisogno di calmarmi, ricordi? Tu l'hai preso la lettera? Sì! Oh, questo non può essere vero! E torna a dormire di nuovo! Per i successivi 5 giorni, la nave navigò e navigò. Il 6° giorno raggiunse l'Artico. Ehi, Zoran, dove vai? Non vieni con il resto dell'equipaggio? No, amico mio, ho i miei impegni. Ma mi unirò a voi, ragazzi, il giorno in cui la nave tornerà indietro. Va bene, allora. Buona fortuna. Oh, e non prendere un raffreddore, capito? Possiamo lasciarlo qui mentre torniamo a casa? Stai zitto, Peri Peri. Zoran camminava sulla fredda superficie ghiacciata dell'Artico con una mappa in mano. Dopo aver camminato per un bel po' di tempo, lì a distanza c'era un igloo di colore blu. Zoran guardò la sua mappa e sorrise. Vieni, Peri Peri, fammi trovare l'amore della mia vita. Zoran entrò nell'igloo e trovò una vecchia signora seduta lì, vicino al fuoco nel mezzo. Era una strega chiamata Lady Laga. Chi sei? E come hai trovato il mio igloo? Zia Laga, sono io, tuo nipote, Zoran. Zoran? Sì, questo è il mio pappagallo, Peri Peri. Beh, buona a sapersi. Adesso via, sciù! No, non sono venuto qui per dirti il suo nome. Ho un problema. Sì? Sono un poeta. Scrivo sull'amore. E non mi sono mai innamorato io stesso. Sembra tutto così sbagliato. Quindi cosa devo fare? La mamma mi raccontava delle storie su di te. Come sei stata un'organizzatrice di incontri per centinaia di persone e come hai aiutato le persone a trovare il loro vero amore. Non lo faccio più? Per favore, zia, per favore. Basta. Ma non è così facile. Sottovaluti il mio essere umano, signora. Scusi. Lady Laga raccontò a Zoran della principessa di ghiaccio, Mintosa, che durante i giovani anni della sua vita non trovò mai il vero amore. Nessun problema. pretendente potrebbe muovere il suo cuore e conquistarla. Andarono da lei e se ne andarono uno dopo l'altro. Alla fine divenne così triste che la sua fede nel vero amore svanì. Il suo cuore divenne freddo, così freddo che tutto il suo corpo si trasformò in ghiaccio. Il re ha provato diversi metodi per riportarla alla normalità, ma nulla ha funzionato. Alla fine, su consiglio del saggio eremita, il re, con la tristezza nel cuore, fece spostare il corpo scolpito nel ghiaccio di sua figlia nell'Artico. Ok, adoro questa fiaba dell'era glaciale che hai appena narrato con tanta intensità. Mi stai prendendo in giro? Non ascoltarlo, zia. Per favore, dimmi di più. Non lontano da qui vive una colonia di pinguini chiamata Chirrins. Sono sempre felici e non hanno idea di cosa siano le lacrime. Se riesci a far versare una lacrima di gioia a qualcuno di loro e a farla cadere su un sassolino, avrai completato metà del compito. E per quanto riguarda l'altra metà? Bene, con il sassolino in mano dovrai proporre alla scultura di ghiaccio. Se la tua proposta è abbastanza forte da raggiungere il cuore della principessa penetrando nel suo strato di ghiaccio, allora avrai trovato il vero amore. Che cosa c'è? Penso che la nostra vicina Lana Rodriguez sia un'idea migliore. Le piaci molto e non devi affrontare tutti questi sassolini e sculture di ghiaccio per conquistarla. Peri. Sì? Stai zitto. Zia Laga, prima che io vada, ho bisogno di un altro favore. Zoran e Peri partirono per andare nel luogo dei Cerin. Quando arrivarono lì, si resero conto di essere circondati da loro. Cosa vuoi? Bene, sono venuto da te con un regalo. Un regalo? Sì, eccolo qui. Guarda tu stesso. Il capo dei pinguini prese il dono. E quando lo aprì, ne uscì... Sì, continua pure, narratrice. Da esso ne uscì un deltaplano. Wow, un deltaplano? Sì. Ma a cosa serve? Perché non lo metti e lo provi tu stesso? Il capo dei pinguini lo indossò. Ora corri e lasciati andare. Ed è esattamente quello che fece. E un attimo dopo era in aria e volava come un uccello. Sopraffatto dalla gioia, le lacrime gli uscirono dagli occhi. Peri raccolse immediatamente un sassolino e seguì le lacrime. Sì, presa! La goccia di lacrima cadde sul sassolino, che brillò intensamente. I pinguini corsero dietro al loro capo, che volava felicemente. Nel frattempo, Zoran e Peri si diressero verso la scultura di ghiaccio. Quando raggiunsero il luogo in cui si trovava la scultura, rimasero incantati. Fata madre dei pappagalli, è meravigliosa! Zoran sorrise e cadde su un ginocchio. Chiusi gli occhi e fece un respiro profondo. In questo preciso momento stia fermo il tempo. In questo preciso momento io perdo ogni senso per soddisfare tutto ciò che hai sempre desiderato. Per lasciare tutto alle spalle e andare avanti verso te, il tuo cuore, la tua anima e la tua mente. Aiutami, o principessa, perché sto perdendo il controllo veramente. Distruggi quel vetro e vieni fuori per me. Sono qui per te adesso e lo sarò per sempre. Vieni fuori, o principessa, vieni fuori, per favore. Perché in questo preciso momento spero stia fermo il tempo. Perché in questo preciso momento io perdo ogni senso. Una leggera brezza di vento soffiò oltre Zoran e proprio in quel momento lo strato di ghiaccio si spezzò in pezzi e da lì emerse la principessa Mintosa. Le sue guance erano rose, i suoi occhi erano bagnati e i suoi capelli volavano nell'aria. Zoran si inchinò per ammirarla. La mascella di Perry Perry cadde. Oh, cielo! La principessa Mintosa si avvicinò a Zoran mentre si stava rialzando. I due si guardarono negli occhi. Zoran diede il sassolino alla principessa. Lei sorrise e lo prese. Nei minuti successivi non dissero nulla, ma continuarono a guardarsi. Ok, missione compiuta! Possiamo andare a casa adesso? Cosa è successo dopo? Bene, la principessa Mintosa tornò al suo palazzo e il re ne fu felicissimo. Zoran fu nominato cavaliere dell'esercito reale e presto i due si sposarono. Si tenne una grande festa e quel giorno, volando attraverso la finestra nella sala delle feste, arrivò un altro pappagallo. Vedendola, il nostro Perry Perry rimase incantato. Le volò accanto. Ehi, ciao, come ti chiami? Il mio nome è Patatina, Patatina Fritta.